America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. It's my honor and privilege to endorse Mitt Romney. Mitt is tough, he's smart, he's sharp. So, Governor Romney, go out and get him. Donald Trump, l'avrete riconosciuto, grande immobiliarista americano, ormai star televisiva, aspirante politico, ha rinunciato alla corsa presidenziale, aveva sottoscritto la corsa di Newt Gingrich e ieri, dimostrando grande coerenza, ha cambiato idea e ha dato il suo appoggio a Mitt Romney. È stata un po' la notizia dominante della giornata dal punto di vista della politica, e questo ha detto Trump nella dichiarazione che vi ho fatto sentire: è un onore per me dare il mio appoggio a Mitt Romney, è un uomo tenace, intelligente, astuto, non permetterà che le cose peggiorino in questo paese che tutti noi amiamo così tanto. Domani caucus in Nevada, Romney è in vantaggio di 20 punti al 45%, Gingrich è soltanto al 25%, su base nazionale Romney è abbastanza avanti a questo punto al 31 contro il 25, ma questa differenza si aggiusterà al rialzo per Romney. Romney è anche in vantaggio del 24% in Arizona e in vantaggio in Michigan e un po' incerti in Ohio, ma anche lì le cose cambieranno. Romney, insomma, la nomination alla fine andrà a Romney. A questo punto si tratta di capire quando il gruppo di testa si restringerà. Parliamo adesso di Super Bowl, il grande evento sportivo dell'anno. Domenica ci sarà lo scontro finale tra i Patriots e i Giants di New York. Football naturalmente, go Giants, noi teniamo per i Giants visto che trasmettiamo da New York. La squadra, diciamo, è ben posizionata, nel 2008 già ha vinto proprio contro i Patriots, quindi c'è un po' un derby della costa orientale, perché i Patriots sono di Boston. Pensate che i Giants hanno vinto solo 3 volte il Super Bowl, nell'86, nel 90 e nel 2008, quindi adesso siamo abbastanza vicini e c'era stato un lungo periodo di astinenza. Non vi descrivo l'eccitazione, anzi ve la descrivo, perché proprio ieri sono stato a un evento da Michael's. Chi è Michael's? Beh, Michael's è un ristorante qui a New York dove dominano i media, ci vanno spessissimo personaggi dei media, personaggi della politica, e sulla 55 fra la Madison e la Sesta Avenue. Si chiama Michael's perché il proprietario è Michael's, è un ristorante, come vi dicevo, dei più conosciuti qui in città, e ieri era chiuso per un party privato al quale, non so perché, ma ho avuto il privilegio di essere invitato. Un party dedicato ai Giants, un party dedicato al Super Bowl di domenica. C'erano i berretti, i cappelletti bianchi con il segno dei New York Giants, ed erano già in onore della finale dell'NFL, della National Football League, che hanno vinto, quindi loro sono i campioni di una delle due leghe, i Patriots sono i campioni dell'altra lega, e quindi lo scontro avverrà domenica. By most predictions, Sunday the Super Bowl will be the most watched television event in history. Over 100 million people will watch the football game here in the United States alone. I'm thrilled for New York, I'm thrilled for the Giants, I'm thrilled to introduce the co-owner of the team, Steve Tisch. Matt Lauer è una star della televisione americana, conduce il programma del mattino sulla NBC, uno dei programmi più sentiti, il Today Show. Ecco, non è conosciuto da noi perché, come spesso succede, la caratterizzazione dei personaggi televisivi è molto locale, però che vi posso dire, potrebbe essere conosciuto come è conosciuto Bruno Vespa in Italia, ecco, oppure come noi conosciamo George Clooney, ecco, è una grandissima star. Dunque Lauer ha fatto la presentazione dell'evento, ha fatto un piccolo discorso, con lui c'era anche Harvey Weinstein è il produttore cinematografico, quello che ha vinto già alcuni Globe Awards e ha numerosi film in palio per l'Oscar, un personaggio, devo dire, straordinario, è stato un po' lui l'organizzatore di questa giornata. E Matt Lauer, nel piccolo stacco che vi ho fatto sentire, dà due notizie. La prima, che questa Super Bowl che arriva sarà l'evento sportivo più visto nella storia della televisione americana. Ma vedremo se è vero, certo sarebbe eccitante se lo fosse. E ha soprattutto presentato Steve Tisch, il proprietario dei Giants. Chi sono i T? Sono una grandissima famiglia newyorkese che controlla alberghi. A un certo punto era la proprietaria della CBS, la grande rete televisiva americana, una delle famiglie più ricche d'America. Sono una famiglia, devo dire, molto numerosa. Sono tre o quattro fratelli con figli, nipoti, quindi è una specie di clan. E Steve, tra l'altro, è uno dei proprietari dei Giants. L'altro, che in realtà detiene la maggioranza, è John Mara. È una storia molto interessante questa dei Giants, perché la squadra è stata fondata dal nonno di John Mara nel 1925. I Mara sono degli irlandesi e il nonno era un uomo che si è fatto dal nulla e poi ha costituito questa squadra perché così voleva affermarsi nel mondo, nella società newyorkese. Ha creato una tradizione straordinaria. I Giants ormai sono famosi in tutto il mondo e soprattutto questa famiglia è poi riuscita a tenere la proprietà sempre a casa. Now, Fogowski was a 22-year veteran of the force, a father of four daughters and a well-respected member of the community. He lost his life in the line of duty when he was shot and killed last week in Brooklyn. Una delle sorprese della giornata è stata che nei vari tavoli, questi tavoli erano tutti apparecchiati, ci saranno stati un centinaio di persone, e in uno dei tavoli c'era la vedova di Peter Figowski. Peter Figowski, un poliziotto newyorkese di 47 anni, che è morto l'anno scorso, ucciso durante una sua perlustrazione alle 2:30 del mattino. Pensate, era nel distretto 47, per 22 anni è stato nel distretto 47, che è quello che ha il più alto quoziente di criminalità a New York. Ha scelto di continuare a star lì ed è stato ucciso da un comune rapinatore che, pensate, era stato liberato appena poche settimane prima per un cavillo legale, perché sennò sarebbe dovuto restare in prigione. È stata una tragedia che ha colpito la città. Bloomberg è andato subito in ospedale alle 3:30, alle 4 del mattino, ha fatto una conferenza stampa. Ebbene, c'erano le figlie e la moglie di questo poliziotto, e Weinstein ha fatto una sorpresa. Siccome sono tifose dei Giants, ha detto che le porterà con sé nel suo aereo privato a vedere la partita a Indianapolis, nello stato dell'Indiana, domenica prossima. E ha avuto anche un'altra sorpresa. Siccome Peter Figowski aveva altre due figlie più grandi da un altro matrimonio, queste due ragazze non potevano andare perché sono già al college, ebbene, ha detto, le porterò con me agli Oscar. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Madonna, Madonna sarà la performance centrale al Super Bowl di Indianapolis. È già arrivata, ha twittato tutta la sua eccitazione per questa performance che la attende, e vi faremo ascoltare ovviamente la performance di domenica, ma intanto dedichiamo a lei la canzone del giorno, Madonna, Like a Prayer. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì con i risultati del Super Bowl. Goodbye and get going! America 24.